ora in onda, qua e là, tra una novità e l'altra. Buona domenica da Pino Simplicio, quella tra una novità e l'altra. Domenica 22 aprile 2012, una puntata che dove avremo modo tra l'altro di intervistare, mi auguro che non ci siano particolari problemi, una persona che rimane splendida nel panorama della canzone, che è appunto Don Bachi. Ma andiamo con ordine, perché già i miei due ospiti in studio, che ringrazio per essere presenti, Antonio Barracato e Angelo Maggio. Con Antonio parleremo di questi 10 giorni d'arte a Bagheria. Grazie Antonio per essere presente, perché quello scenario stupendo di Palazzo Butera, appunto, Palazzo Butera sta ospitando questa mostra dove tu sei uno dei protagonisti, ora appunto ne parleremo. E poi parleremo con Angelo Maggio, che appunto è il presidente del Centro Commerciale Naturale Cefalù Perla del Tirrenio, è un consorzio, ne sapremo di più, Angelo. Sì, e quindi parleremo appunto di Cefalù Perla del Tirreno con Angelo Maggio. Il consorzio è stato presentato alla Fondazione Mandralisca, quindi già è decollato, c'ha delle finalità, c'ha dei punti forti che andremo appunto a snocciolare durante la trasmissione. Desidero iniziare però proprio con l'arte, con la cultura, perché in questi momenti dove effettivamente manca qualche cosa, o forse in altre realtà territoriali ci si ricorda che la settimana della cultura si sta svolgendo a Roma, per esempio, questa iniziativa diversa, come in tante altre città d'Italia, musei aperti, ci sono tanti momenti di ricchezza che il nostro patrimonio artistico, i nostri artisti, quanto credono nell'arte, nella cultura, ecco, stanno in questa settimana, che poi la settimana dura sempre tutto l'anno, cambia soltanto che in altri periodi gli ingressi sono a pagamento. Ma io ho avuto modo, il ritorno da Roma, di poter vedere che tipo di movimento. Capisco che Roma capitale è sempre Roma, però ecco, anche altri centri che non sono così noti come Roma hanno cercato di dare un seguito a questa settimana della cultura. Bagheria è una realtà di queste. Certo. Antonio, avvicinati al microfono, parliamo appunto di questa iniziativa d'arte importantissima, 10 giorni d'arte a Bagheria, a Palazzo Butera, un sì, palazzo ben conosciuto, ben noto, e dove effettivamente esporre certo, dà anche un tocco magico. Come non merita molto, perché intanto Palazzo Butera è stato restaurato recentemente e hanno utilizzato tutte le stanze, tutti i saloni per consentire a circa 90 artisti di esporre ognuno, diciamo, in base al proprio settore, fotografi, scultori, pittori. Ci sono delle aree in cui si esibiscono artisti da strada che francamente danno un tocco magico alla manifestazione. Ho avuto modo di apprezzare questa sensibilità da parte dell'amministrazione di Bagheria, che ha cercato di valorizzare così, senza particolari interventi, perché per esporre lì è stato facile, facevo una domanda all'assessore e ti assegnavano uno spazio, c'erano delle stanze, ognuno, quindi con estrema disponibilità e valorizzando le sostanze intellettuali che si volevano misurare fra di loro. È stato positivo l'incontro con le diverse tecniche, con le diverse discipline. Bagheria, devo dire che è un polo culturale che sempre si evidenzia. Purtroppo devo stringere i denti pensando a Cefalù, che ha delle possibilità di organizzare cose simili, però di fatto ci perdiamo per strada. Ad esempio, non so manco chi è l'assessore della cultura. Ma comunque dico, io sarei felice se noi ospitassimo una manifestazione del genere, perché sarebbe senz'altro positivo per la città, anche per l'economia Non so. Ecco, io intanto non l'ho detto in premessa, lo dico adesso. Io vi prego, ci dobbiamo attenere esclusivamente ai temi per i quali siete stati invitati, per ovvi motivi. Ricordiamo che a Cefalù si voterà il prossimo 6 e 7 maggio, per cui siamo al di fuori fino all'8 maggio, ecco così. Dopodiché possiamo riprendere a discutere su qualsiasi tematica. Ovviamente ritorneremo sull'argomento con Antonio, perché con Antonio Barragato, perché scusate se lo chiamo confidenzialmente in questo modo, dovrei ricordarmi che sono il conduttore di qua e là tra una novità e l'altra, lo sono, però gli ospiti che ho in studio insomma sono delle però persone devo dire, molto vicine, se me lo consenti. Prego. Che sei stato una delle poche persone che mi ha coinvolto in manifestazioni culturali, sei stato sempre disponibile con tanti artisti a parlarne, a valorizzarle. Hai contribuito sempre alla crescita di questa città in quelle che sono le tue competenze e il tuo amore per l'arte e per la cultura, quindi questo te ne dobbiamo dare atto. Ti ringrazio, oggi mia moglie aggiungerà un posto a tavola a pranzo. Angelo Maggio, Angelo, ecco, mi fa piacere, ti ho lasciato piccolino, ti ritrovo presidente di questo consorzio che è stato presentato. Ecco, io gradirei fare la cornice anche per quanto riguarda questo consorzio che si è costituito. Stiamo attraversando un momento difficilissimo, lo sappiamo, non desidero ritornarci sopra, perché questo spread è diventato ogni mattina proprio, una volta uno si alzava la mattina, parlava di ben altro, ora lo spread è salito, è sceso, bla bla bla bla bla bla. Noi dobbiamo parlare di come progettare il futuro guardando ovviamente al presente, perché lo stiamo vivendo adesso, e penso che con questa iniziativa che tu adesso presenterai, però vi terrò qua un bel po' stamane, perché siete i miei due ospiti, per cui avrò il piacere anche di farvi ascoltare l'intervista con l'altro ospite che raggiungeremo telefonicamente. Ecco, ti stavo dicendo in questo momento, dove veramente dobbiamo parlare di rilancio, dobbiamo parlare di produttività, dobbiamo cercare di capire come il nostro bel paese può veramente competere con altre realtà europee e anche di oltreoceano, giustamente o ci si attrezza o si comincia a guardare in avanti o se no veramente siamo messi male e resteremo messi male. Angelo. Sì, infatti intanto do il buongiorno e ringrazio ti ringrazio Pino per l'accoglienza presso CRM. La cornice è questa: in consorzio in realtà nasce da un percorso abbastanza travagliato fin dal 2009 con un comitato promotore che si era incontrato, erano delle associazioni di categoria, la Confesercenti, la CNA, alcune realtà importanti commerciali e produttive di Cefalù, per dare vita a questo progetto. È un progetto che nasce da una legge comunitaria, la Regione Sicilia ha preso questo progetto, l'ha fatto suo ed eccoci qui. Il comitato promotore ha preparato il terreno, io ho raccolto questo bambino, la mia idea è quella di farla crescere, quindi è un percorso che dura ormai da quasi 2 anni. Il Centro Commerciale Naturale è un consorzio, come dicevamo prima, di realtà economiche, commerciali e produttive, ed è un progetto che è finalizzato al rilancio, proprio come ne parlavamo poc'anzi, dell'economia, soprattutto locale. Chiaramente, insomma, riprendere le discussioni sulla crisi, abbiamo detto lasciamole indietro, andiamo avanti. Il nostro è un progetto concreto, fatto di idee concrete da realizzare a breve, a medio, a lungo termine. Avremo modo di parlarne sicuramente. Noi abbiamo dato il via ufficiale con la manifestazione che si è tenuta al Mandralisca un paio di giorni fa. Siamo in 30 associati, 30 realtà commerciali e produttive di Cefalù. Tengo a precisare che il Centro Commerciale Naturale è un consorzio dove può partecipare qualsiasi soggetto giuridico, escluse le pubbliche amministrazioni. Quindi diciamo è un contenitore a cui possono far parte associazioni, esercenti, imprese turistiche. Per esempio io ho una società di servizio al turismo, quindi mi piace sottolinearlo perché non è un'associazione di categoria di commercianti o di esercenti, quindi è un progetto ancora più vasto. Fra le varie opportunità che possono nascere, sicuramente quello del rilancio dell'economia locale, soprattutto attraverso una serie di interventi di cui a breve ne parleremo. L'aspetto della cultura, per esempio, è un aspetto molto importante. Allora, riuscire a organizzare insieme con le realtà culturali del nostro territorio e riuscire a organizzare degli eventi che possano incentivare chiaramente la cultura, quindi alzare il livello culturale del paese, b attrarre diciamo, chiamiamolo turismo anche locale, che può essere quello del bacino delle Madonie, quello del bacino del Termitano, fino ad arrivare al bacino del Palermitano, per fare in modo di incentivare l'economia locale della cittadina. Ecco, proprio hai centrato il discorso, è quello che svilupperemo durante questa trasmissione, perché sicuramente un consorzio nasce anche per mettere a frutto quelle filiere produttive che non riguardano solamente un settore, ma che riguardano tantissimi settori. Se mi consenti, perdonami. Come no? Ecco, io, Antonio, ti faccio pure la domanda nel contempo. Adesso qua non vuole essere uno scambio di cortesie, me ne guarderei bene da farlo, ma Antonio, e salutando io Antonio, saluto quanti come lui hanno creduto e credono in questa forma di arte, che può essere la pittura, può essere la fotografia, può abbracciare altri campi, ma che sicuramente ci porta ad un miglioramento della persona, prima per noi stessi, perché se non viviamo bene con noi stessi non possiamo dare agli altri. E quando ci avviciniamo a determinati eventi lo facciamo sempre con un approccio, almeno io parlo personalmente, di chi desidera apprendere, e non uso una frase fatta, lungo l'arco di tutta la vita. Antonio. Dico, io mi stavo dicendo appunto a lui che è importante che il turista che viene, anzi l'ho notato spesse volte, il turista quando viene a visitare un posto d'arte come Cefalù non si limita a venirsene a mare e rilassarsi, poi la sera cerca attività culturali che facciano conoscere bene il territorio, le nostre tradizioni, il nostro modo di vivere, la nostra cucina. E a volte ho visto che noi siamo carenti, perché quando si avvicinano a qualche cosa rimangono poi smarriti, perché vedono che qui alla fine non riescono a trovare granché, a parte qualche privato che cerca di operare, di esternare quello che è il suo modo di fare arte. Quindi, come dici tu giustamente, ci vuole una buona comunicazione fra tutte le forze economiche e artistiche della città, perché non solo c'è un ritorno economico e un ritorno di visibilità, ma c'è anche la possibilità di fare conoscere quello che è il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere, le nostre tradizioni culturali, le nostre radici, che sono fondamentali, perché solitamente quando si va all'estero si scava in quello che c'è, in quella nazione, in quella città, per cercare di capire le radici storiche, e quindi per conoscere quel popolo. Non ci si limita a comprare il pacchetto confezionato per rilassarsi 5 minuti, perché è anche un modo di rilassarsi, conoscere, accrescere quello che tu hai dentro, e ti rigenera per quando ritorni al lavoro. Quindi la vacanza turistica funziona meglio se ci metti sicuramente un po' di arte, un po' di storia. Infatti, diciamo, la nostra sfida è proprio questo, dico nostra intesa come tutte le realtà che agiscono sul nostro territorio. La nostra sfida è quella di avere la capacità nostra di sederci attorno a un tavolo ed iniziare a pensare tutti come un unico soggetto per il bene della cittadina, arte, cultura, commercio, economia, turismo, dico tutta una serie di infatti io ti dico, evitiamo di disperdere le nostre energie, cioè cerchiamo di metterle insieme, perché a volte ho visto che c'è Falù un po' come mentalità, ognuno è troppo solista, e questo non mi piace, ho sempre lottato questo principio. Per dirti, a volte in alcune strutture alberghiere ho fatto delle proiezioni di video sempre con la finalità di far conoscere la Sicilia, attenzione, non perché ci avessi guadagnato un centesimo, ma soltanto per questa volontà. Quindi mi fa piacere questo tuo discorso, perché pedala bene con quella che è la mentalità di crescita, no? Assolutamente. Oggi dico, permettimi fino ad oggi, fare rete, questa è la nostra sfida, riuscire a far rete, quindi sinergia, è uno degli aspetti vincenti per combattere periodi di crisi. In periodi di crisi l'unione, dico, fa la forza, è un vecchio detto, ma è un detto assolutamente veritiero, secondo me. Questa è una delle sfide, per esempio, del centro commerciale naturale, riuscire a sederci intorno a un tavolo diverse realtà commerciali ed economiche e sfruttare, nel senso positivo, questo contenitore del centro commerciale naturale. Abbiamo in cantiere una serie di iniziative, che ben venga il supporto, anzi il mio è un appello a 360 gradi, il supporto è di tutte le realtà artistiche, culturali, commerciali che incidono sul nostro territorio. Dico, facciamo qualcosa di nuovo, cioè siamo propositivi noi a lanciare qualche cosa. Assolutamente, ecco. Sì. Mi fa piacere perché come mia abitudine non preparo mai nulla, cioè non chiedo mai prima su cosa deve poi snodarsi la discussione. Ed è un piacere proprio che si parli anche spontaneamente, perché così raggiungiamo non solo i nostri radioascoltatori che ci seguono sulle frequenze di CRM, ma soprattutto coloro i quali ci seguono da oltre oceano. Io ricordo che questa trasmissione a loro un particolare saluto, perché so per loro cosa significa sentire la voce della comunità territoriale, ecco, gli sviluppi della situazione. Purtroppo avremmo pure voluto continuare con un certo genere di trasmissione in questo periodo, ma come abbiamo avuto modo di dire, come ha ricordato il nostro direttore Mario Lombardo, ecco, dobbiamo stare attenti, per cui chi desidera ascoltare li ascolterà proprio in questo periodo in altre sedi che siano proprio differenti e diverse dalla nostra emittente. Allora, appunto, il mio affettuoso saluto. Questa trasmissione verrà replicata, questa trasmissione che non solo si sente ma si vede, verrà replicata lunedì con inizio alle ore 13:10 circa, e appunto proprio per ottimizzare anche le nostre repliche io passo la linea alla regia per un breve stacco pubblicitario. Grazie. CRM Pubblicità. In un momento di crisi si può ancora mangiare bene. Mio Sudide, ristorante e pizzeria, dove potrete gustare specialità marinare e della cucina tipica siciliana o scegliere tra svariati tipi di pizze cotte nel forno a legna. Ristorante e pizzeria Mio Sudide, dove lo chef Tutuccio Culotta vi proporrà le sue specialità preparate con prodotti caserecci e con il pesce fresco tutti i giorni. Mio Sudide, il locale ideale per festeggiare le ricorrenze importanti, e inoltre è convenzionato Diamond Card. Ristorante pizzeria Mio Sotide, ex Conchiglia, con ampia terrazza immersa nel verde, contrada Santa Lucia a Cefalù, accanto al rifornimento Eni. Per prenotazioni 339 31 79 348. In un momento di crisi si può ancora mangiare bene. Quando devo regalare un gioiello, vado da Mineo Gioielli, perché mi sento accolta, coccolata. Capiscono cosa cerco per rendere felice la persona a cui donare un gioiello. Non perdo un'occasione per recarmi da Mineo Gioielli, perché oltre alla cortesia e gentilezza, trovo le più preziose idee regalo. Gioielli esclusivi sapientemente lavorati da maestri orafi che trasmettono emozioni, testimoni di momenti memorabili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3 a Bagheria. Telefono 091 96 23 13. Perché regalare un gioiello non è solo un piacere per chi lo riceve, ma anche per chi lo regala. Stuzzico, fast food pizzeria a Cefalù. Pizze piccole e familiari, primi e secondi piatti veloci, da consumare sul posto o da asporto, insalate fresche e fantasiose, e le specialità panini, piadine, kebab e piatto kebab, panini con hamburger e con porchetta, e il gelato soft. Da Stuzzico, menù fisso a base di carne 12 euro, di pesce 15 euro. Stuzzico è anche rosticceria Mignon, catering. Stuzzico è ideale per festeggiare compleanni e ricorrenze particolari. Stuzzico, fast food pizzeria, anche servizio a domicilio. Via Roma 39, telefono 0921 42 35 42, Cefalù. Da Stuzzico anche panini di vari gusti piastrati, pane con la milza e crepe. Per la tua pubblicità, CRM 0921 42 3456. Elezioni comunali di Cefalù. Messaggio elettorale a pagamento commissionato dal candidato sindaco di Cefalù, Sarola Punzina. Cefalù attende l'impegno di tutti per trasformarsi, progredire, volare in alto. Vogliamo realizzare insieme la città che desideriamo, ricca di opportunità, di saperi, di benessere. Il 6 e il 7 maggio vota Sarola Punzina sindaco. Costruiamo insieme il futuro di Cefalù con impegno e competenza. Messaggio elettorale a pagamento commissionato dalla lista Leali per Cefalù. Per le elezioni amministrative di Cefalù, il 6 e 7 maggio vota la lista Leali per Cefalù. Per un futuro migliore è possibile. Vota Croci Sindaco e la lista Leali per Cefalù. La differenza che fa differenza. CLM. Messaggio elettorale a pagamento commissionato dalla lista Partito Democratico. Concittadini, il Partito Democratico ha rappresentato in questi anni una realtà sempre presente nell'affrontare con coerenza e impegno i problemi della comunità. Vogliamo restituire alla nostra città la lucentezza offuscata da troppi anni di malgoverno. Il 6 e 7 maggio sii protagonista del futuro. Vota Partito Democratico con Sarola Punzina, sindaco di Cefalù. Cambierà, tutto cambierà, cambierà. CLM. Quella tra una novità e l'altra, domenica 22 aprile 2012, in studio Antonio Barracato, Angelo Maggio, con loro parliamo e continuiamo a parlare appunto di queste iniziative. E come vi avevamo pronunciato, abbiamo proprio il piacere di avere in linea un personaggio che, oltre ad essere noto, è un personaggio molto vicino al mondo degli scrittori, perché anche lui è uno scrittore. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Don Bachi, permetti il primo pensiero che va alla tua signora con i migliori auguri di buona Grazie, salute. Gli passerò, sono appena tornato appunto da andarla a prendere. Ecco, in studio ci sono due ospiti, perché qua si parla stamane anche proprio di momenti di rilancio, perché i talenti ci sono e tu sei uno di questi, per cui il nostro bel paese può guardare al futuro e devi continuare a guardare al futuro. Ecco, certo. Don Bachi, tu, ci siamo sentiti anche in settimana, non fai altro che stupirmi a 360 gradi, perché gli anni aumentano soltanto all'anagrafe, ma non nel tuo spirito, purtroppo. Non nel tuo spirito, perché mi risulta, ho parlato anche con tuo figlio, con Emiliano, che sentiremo dopo, che mi sembra sulle stesse orme del papà in tema di dinamismo. Quindi, credo di sì, mi somiglia molto in questo senso. Ecco, tu hai fatto, intanto dovevano uscire 4 libri, già ce ne sono 5, i primi 3 e adesso li andremo proprio a vedere insieme a te, ti faremo ascoltare anche una canzone che è un cavallo di battaglia che interessa un pochino a tutti, 20 anni, che è una canzone apprezzatissima, riconosciutissima, non solo a livello nazionale ma anche fuori dalle nostre mura. Ecco, una tappa che va dal 1955 al 2005. Io prima ti devo fare una premessa, dato che noi partiamo da lontano. Il nostro direttore di CRM, della testata giornalistica, quando ha saputo che ti avrei intervistato stamattina, mi ha fatto e mi ha detto di poterti chiedere: ti ricordi quando hai scritto "Io che miro al tondo"? Il nostro direttore era corrispondente del giornale L'Ora, e allora tu hai rilasciato una intervista, una lunga intervista su "Io che miro al tondo". Ci vuoi dire in poche parole, te ne ricordi? Mi ricordo del libro, certamente non dell'intervista, perché è passato troppo tempo. È un libro che ho pubblicato, anzi che ha pubblicato l'editore Feltrinelli nel 1967, quindi è benissimo. Qualche giorno fa, insomma, ecco. Sì, ecco, qualche giorno. Senti, intanto come tu sai, noi non siamo solamente in audio ma anche in video, e c'è una tua foto, ci sono tantissimi capelli, questo sguardo proprio che colpisce, di persona estroversa però, perché la tua... I tuoi anni 20, 18, 17, mi sembra che erano degli anni un pochino... Eri birichino o no? Ma dipende, ero un po' come tutti i ragazzi che avevano quell'età in quel periodo. Certamente non eravamo birichini come i ragazzi di oggi, questo è poco ma sicuro. Eravamo molto più ingenui, e certo le nostre birichinate venivano sicuramente... perdonate, perché erano proprio delle birichinate, ecco, non erano nient'altro che questo. Senti, tu che hai vissuto negli anni 50, stai vivendo queste realtà, cosa cambia secondo te proprio nei giovani? Senz'altro il modo di pensare, siamo nell'era della tecnologia, per cui basta un clic oggi per andare avanti. Forse prima io utilizzo un termine che a te sta molto a cuore, quello che riguarda la creatività, e tu sei sempre stato un creativo, ecco, forse perché all'inizio, quando io dicevo all'anagrafe gli anni vanno avanti, ma non sicuramente nella persona, nel tuo spirito, nel modo di vedere e nel modo di pensare. Questa creatività, scusami, degli anni 50 rispetto a quello che si vede adesso, secondo te che differenze ci sono? Ma le differenze, sai, che poi è tutto soggettivo, ciascuno di noi insomma la pensa in una maniera diversa, e magari tutti quanti hanno ragione, tutti quanti hanno torto nello stesso tempo. Il mio pensiero è che allora si fosse molto più istintivi, proprio grazie a questa ingenuità che era la nostra, come dire, cifra, ecco, di riconoscimento, di ingenuità, e anche conseguentemente quindi tutte le canzoni, le cose che facevamo risentivano di questa caratteristica. Le nostre canzoni erano istintive, erano canzoni che nascevano da una conoscenza diciamo limitata della musica nella sua, diciamo, accezione armonica, ecco. Noi avevamo imparato 3-4 accordi, almeno per quel che mi riguarda, che erano poi gli accordi base del rock and roll, che era la musica nuova che i ragazzi di quel periodo abbracciarono intorno alla metà degli anni 50. Quindi una volta imparati 3 accordi, per noi si fermava lì la concezione armonica. E su questi 3 accordi, 3-4 accordi, un giro armonico, magari nascevano canzoni straordinarie, proprio perché erano semplici, erano canzoni che ciascuno di noi avrebbe potuto scrivere proprio seguendo il giro armonico classico. Infatti, se tu vai a vedere i maggiori capolavori dei grandi autori, da Modugno a Gino Paoli, se ci vogliamo mettere anche le mie, ben vengano, sono tutte quante costruite queste canzoni su un giro armonico semplice, magari di do maggiore, ecco. Quindi la differenza con quelle e queste di oggi è che oggi i ragazzi hanno si sono acculturati musicalmente, sono capaci di creare armonizzazioni complicate, proprio perché hanno studiato lo strumento e non solo, e quindi non si contentano più di scrivere canzoni usando un giro armonico semplice, do, la, fa e sol. È chiaro, perché si domandano a cosa è servito allora lo studio, e quindi vanno a complicarsi la vita cercando di scrivere, anzi scrivendo canzoni usando una tecnica che è alla base di ciò che hanno imparato sui libri a scuola, e questo rende le canzoni sicuramente molto più complicate, perché il pubblico in maniera ancestrale conosce le dinamiche semplici, quindi i giri armonici è come se ciascuno di noi ne avesse uno dentro. Una canzone scritta su un giro armonico viene subito riconosciuta e viene fatta propria, cioè la si conosce e la si apprezzerà per 50 anni, la si riconoscerà sempre. Una canzone fatta oggi da un autore che complica, diciamo, tra virgolette, la scrittura della canzone usando armonizzazioni difficili che il pubblico non avverte, ecco che le canzoni sono meno recepite e anche meno ricordate. Si sentono, magari ci piacciono, ma si dimenticano subito. Ovviamente noi nel proseguo del nostro di questa intervista parleremo di Don Bachi, 50 anni di mestiere delle canzoni, questo regalo che ti sei fatto, non diciamo per quale compleanno e quante primavere hai festeggiato. A me piace continuare a parlare, perché vedi, ecco, la tua vena di scrittore non è che la scopriamo su un Don Bachi già maturo nell'età, ecco, perché poi l'età a volte non rispecchia la maturità di una persona, ma tu sin da giovane, quindi già quando quando eri proprio un cantante affermato, hai sempre pensato a scrivere. Cosa significa per te scrivere? Non ho capito quest'ultima domanda. Ecco, cosa significa per te scrivere e darti agli altri, farti leggere dagli altri? Che tensioni provi tutte le volte che riesci a scrivere un libro? Ti puoi immaginare, insomma, per me è come scrivere una canzone. Io sono lo scrittore, per me prosegue diciamo di pari passo con l'autore di musica e di canzoni. Io ho sempre avuto questa passione, tant'è vero che penso proprio di essere il primo ad aver pubblicato un libro fra i cantanti autori, intendo, fra i miei colleghi cantautori, nel 1967. Non esisteva, insomma, ecco, che ci fosse chi scriveva libri e cantava. Io invece l'ho fatto fin dal 67, proprio con Feltrinelli, e poi nel 70, nel 74, insomma, ecco, per me scrivere è una passione. Oggi sto pubblicando questi volumi che riguardano un po' la mia storia e soprattutto figuro, diciamo, da filo conduttore per un viaggio attraverso la musica leggera in Italia per questi primi 50 anni, diciamo, ecco. Quindi dall'avvento del rock and roll, che inizia, come dicevo prima, nel 1955, attraverso la pubblicazione di questi volumi arriverò fino al 2010. Sono libri non solo in prosa, bensì sono anche carichi di fotografie, di lettere, di articoli, di giornale, di minute di canzoni, ecco, tutte le mie canzoni con così come le ho scritte, con gli errori, con le correzioni, eccetera. Quindi credo che siano dei libri molto interessanti dal punto di vista appunto di chi ama questo tipo di cose qua. È una piccola enciclopedia che si comporrà di 5 volumi. I primi 3 sono già stati pubblicati, e un altro sarà pubblicato sotto Natale di quest'anno, e il quinto e ultimo, che arriverà al 2010, sarà pubblicato nell'anno seguente. Quindi un'operazione che mi vede impegnato ormai da molti anni, è molto difficile da realizzarsi, però insomma adesso sono contento di averlo fatto, anche se molte volte durante questa scrittura sono stato tentato da non andare avanti, perché è stato un lavoro veramente molto pesante dal punto di vista proprio anche della ricostruzione dei fatti, e fortunatamente io ho conservato tutte le mie agende personali dal 55 a oggi, le ho tutte, e grazie a queste io sono riuscito a ricostruire praticamente giorno per giorno tutto quello che è accaduto e che è valso la pena di raccontare, appunto. Senti, tra l'altro sei partito facendo parlare un antico jukebox, quindi anche questa Marcord, questo sì, jukebox che il narratore che... di questa mia meravigliosa magica avventura è un jukebox. Infatti i libri sono scritti in terza persona, io sono, come dicevo, il protagonista, perché in fondo poi è la mia storia, e certamente ha attraversato la storia d'Italia in questi ultimi 50 anni, ho raccontato le evoluzioni varie, non soltanto della musica leggera, ma anche dei costumi, degli usi, di tutto ciò che ho visto, che ho avuto modo di constatare girando questa nostra Italia, che è meravigliosa, così come dico appunto in una di quelle canzoni contenute nel cofanetto, che si intitola Cultura da strada, e che ho voluto proprio dedicare a ciò che ho imparato andando in giro, grazie al mio mestiere, in tutti i posti anche più sconosciuti d'Italia, dove ho trovato sempre delle cose meravigliose che esorto appunto i giovani, soprattutto invece di andarsene all'estero a buttare via quattrini eccetera, prima dovrebbero andare a vedere cosa abbiamo noi qua e che nessuno conosce. Senti, in questo momento l'immagine che stiamo mandando ti vede accanto a un tuo amico con siete vestiti da francescani, mi sembra, quindi là sicuramente qualche cosa che avete girato insieme. Sì, è un film con Totò, il no, Monaco di è Monza. con Adriano Celentano, mi sembrava. Sì, il film con Totò, il Monaco di Monza, dove abbiamo fatto la parte di due fraticelli cantando una mia canzone che si intitola La Carità. Sì. Tutto qua. Sì. Senti, la critica ti riconosce per quanto riguarda questi libri un linguaggio fresco e privo di conformismi. Questo mi sembra un fatto importantissimo, perché praticamente nei libri tu continui ad essere tu, cioè non usi luoghi comuni, frasi fatte, ma come dicevi prima rispecchi completamente il percorso che hai vissuto e che continuerai ovviamente a vivere. Ti ritrovi? Io ho preferito uno stile narrativo, ecco, per me questo libro non è una biografia, infatti io non uso mai questo termine. Per me questi libri sono un racconto, un bellissimo racconto di un'avventura, secondo me, lo ripeto, sottolineo, magica, che secondo me sempre è valso la pena di portare a conoscenza di tutti, perché il mio mestiere, il mio ambiente soprattutto, è sempre dipinto sui giornali, in televisione, carico di colori, lustrini, profumi eccetera eccetera. In realtà quella è la facciata, è una crosta, basta grattare un po' e sotto c'è ben altro, c'è qualcos'altro che secondo me vale la pena di raccontare, ecco, per far conoscere a 360 gradi quello che è il mio mestiere, soprattutto perché molti ragazzi sognano pensando tutti quanti di diventare, che ne so io, Battisti, Baglioni o Vasco Rossi o chiunque altro. In realtà è possibile questo, ma dopo c'è il rovescio della medaglia, e io ho raccontato sia quello che la facciata ha, diciamo, il bello e il brutto. Senti Don Baghi, in tutto questo lungo percorso, ma rimane sempre un attuale percorso, perché un altro aspetto della critica che ho avuto modo di leggere è che, ecco, sì, sono passati tanti anni, ma ci si ritrova anche con l'attualità, certamente chi si vuole ritrovare, perché poi ognuno il libro se lo legge lo tocca, lo annusa come lo ritiene è più opportuno, diventa un fatto soggettivo anche la lettura di un testo. In tutto questo lungo percorso, e poi passeremo col far ascoltare ai nostri radioascoltatori una tua canzone che è un cavallo di battaglia, 20 anni, per poi parlare del famoso cofanetto che è altrettanto importante. In tutto questo periodo, se tu potessi proprio cancellare qualche cosa, potessi rivedere qualche cosa, annullare qualche cosa di questo percorso e invece di poterne potenziare altri, cosa annulleresti per primo? C'è qualche cosa? Guarda, della mia vita io non annullerei proprio niente, anche gli errori, ne ho commessi tantissimi, ma sia gli errori che le cose positive mi hanno insegnato, mi hanno fatto uomo, mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto diventare quello che sono, per cui io non cancellerei proprio niente, ripercorrerei esattamente gli stessi passi che ho fatto, perché prima di tutto sono sempre stato convinto che fossero i passi giusti da fare, e poi anche quando mi sono accorto che non lo erano, mi sono serviti da lezione per cercare di non commetterne più in seguito. Se uno non può vivere tutta la vita non sbagliando mai, sbagliare è lecito ed è anche utile se si sa approfittare di quell'errore per fare esperienza. Tutto qua. Ecco, allora adesso ascolta con molta attenzione, perché qua ci fa trascorrere un periodo bellissimo. Ascoltiamo Don Bachi in 20 anni. Ma ci salutiamo? No, non ci salutiamo, ancora dobbiamo parlare di Emiliano, perché mi ha parlato di te con tanto rispetto. Emiliano magari è meglio che chiami lui, perché... No, chiamerò lui senz'altro, però io desidero sapere dal padre come va questo figlio. Perché io ho poco tempo ancora, non sì, pensavo... Sì, la canzone, la canzone. Sì. Anni d'ore vissute chiedendo alla luna la buona fortuna, perduta o fatata, una storia mai nata, improvvisa, argentata. 20 anni pieni di sole, di sere d'estate, di labbra salate, di lacrime amare, di cielo, di mare. Amore di cuore, e suonare, cantare canzoni, provare emozioni guardando al domani, noi travolti da tutto l'amore che può dare il mondo. Illusioni sfiorate, nel vento volate, errate, ingoiate. Anni di giorni radiosi e di paradisi, affamati di vita, affamati d'amore, saziati con odio, con rabbia e di essere moderni, di essere eterni, che saremmo rimasti per sempre padroni del mondo. Essere moderni, di essere eterni, che saremmo rimasti per sempre. e siamo padroni del mondo. Ecco, so che i tuoi tempi sono strettissimi, che ci dobbiamo salutare, però sì, ricordiamo Don Baghi, 50 anni di Mestiere della Canzone, perché non è solamente il CD Mestiere della Canzone, ma ci sono due DVD, e poi ti faccio ascoltare cosa hanno scritto di te Renzo Arbore e Alberto Bevilacqua, dopodiché ci salutiamo. Don Baghi, ci vuoi proprio presentare questo Don Baghi, 50 anni di Mestiere delle Canzoni? Sì, è un cofanetto, come dicevi, che contiene questo CD nuovo intitolato Il Mestiere delle Canzoni, contiene poi dei DVD, uno è composto dal video di 20 anni, la canzone che abbiamo appena ascoltato, molto bello, e un altro è un concerto che ho tenuto dal vivo al Palazzo Partenope di Napoli con tutte le vecchie canzoni, e poi c'è una bella intervista, ci sono i backstage sia della lavorazione del video che quella del CD, e quindi credo che sia un bellissimo prodotto che mi sono, come dicevi, voluto regalare per festeggiare i primi 50 anni di Mestiere delle Canzoni. E i libri invece, appunto, ne abbiamo parlato a lungo, sono libri non soltanto in prosa ma anche pieni di fotografie, di documenti, insomma molto interessanti anche da vedere, tutto il periodo del clan con Adriano eccetera, e sono tutti e due i prodotti anche rintracciabili attraverso e acquistabili attraverso il mio sito, il sito della ciliegia bianca, che è appunto www.donbachi.it oppure www.ciliegiabianca.it. quindi queste sono le informazioni utili per chi fosse interessato ad acquistare questi prodotti. Sono disponibili, si inviano attraverso la raccomandata postale, c'è lì una sul mio sito la spiegazione per come fare per ordinarli, c'è un carrello nell'area acquisti e tutto ciò che bisogna fare per poterli ottenere in spedizione postale. Tutto qua. D'accordo, ascolta. Non credo che ci sia altro da dire. Ascolta, ti saluto con due contributi, uno di Renzo Arbore e uno di Alberto Bevilacqua, che insomma sono persone che quando scrivono sanno cosa scrivono. Le melodie di Don Baghi sono per me, questo è Renzo Arbore, tipicamente italiane, e questo va tutto a suo onore. Comporre cose non banali, con vecchi accordi dei nostri canti folcloristici, con la vecchia vena fatta di pochi accordi non complicati, è senza dubbio perlomeno inconsueto. Si vede che in Don Baghi la melodia ce l'ha proprio dentro, come se permettete, ha dentro anche una semplice ma genuina vena poetica. Questo è Renzo Arbore, mentre Alberto Bevilacqua: le canzoni di Don Baghi sono fini, risentono degli umili cantori delle antiche corti, delle romanze, delle melodie stimmate che troviamo anche nel viso dell'autore, perfettamente intonato alle sue melodie, aguzzo, da bardo e da stradaiolo, e quindi siamo anche in tema con quello che hai scritto, perché appunto si parla da bardo e da stradaiolo. Don Baghi, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti ringraziamo per questa tua presenza, avremo modo di risentirci, tantissimi auguri e grazie. Continua a scrivere, perché è sempre un piacere poterti leggere e nello stesso tempo poterti ascoltare. Ciao Don Baghi, grazie, buona domenica, grazie dai ciao tantissimi ammiratori, ciao grazie. Ciao. E io direi a questo punto, caro Fabio, che sei in regia e ti ringrazio, mandiamo un breve stacco pubblicitario, dopodiché rientreremo in studio, grazie. CRM. Pubblicità. Il mito diventa realtà. Remida a Cefalù trasforma il vostro oro e argento in denaro contante. Veniteci a trovare per una valutazione gratuita. Rimarrete sorpresi del valore che solo Remida riesce a dare ai vostri oggetti. Remida a Cefalù è in via San Pasquale 20. Vi accoglieremo con serietà e trasparenza, garantendo per il vostro oro e argento la massima quotazione di mercato, certi di lasciarvi soddisfatti. Remida, a Cefalù in via San Pasquale 20, per realizzare i vostri sogni nel cassetto.

Elezioni comunali di Castelbuono. Messaggio elettorale a pagamento commissionato dal candidato sindaco di Castelbuono Giuseppe Norata. Per consolidare l'immagine turistica di Castelbuono, per gli eventi, la cultura, per la valorizzazione del patrimonio artistico, per Castelbuono. Alle elezioni comunali del 6 e 7 maggio, vota i candidati della lista L'Ulivo con Unione Civica di Centro e scegli Peppe Norata sindaco. Peppe Norata, sindaco per Castelbuono. Se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando. Messaggio elettorale a pagamento commissionato dal candidato sindaco di Castelbuono Antonio Tumminello. Un impegno comune per una Castelbuono migliore. Alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio vota Antonio Tumminello, candidato sindaco della lista Castelbuono in Movimento, nell'interesse del paese, per una delle cose possibili, fatto di uomini e donne liberi, per affrontare le emergenze e principalmente per programmare un futuro di crescita per tutti. Il 6 e 7 maggio dai il tuo voto ad Antonio Tumminello, il sindaco di parte, quella dei cittadini di Castelbuono. Per la tua pubblicità, CRM 0921 42 3456. Quella tra una novità e l'altra, domenica 22 aprile 2012, rientriamo in studio. Io mi auguro prima di concludere appunto questa puntata di quella tra una novità e l'altra, possiamo ascoltare anche il figlio di Don Bachi, Emiliano. Ma adesso ascoltiamo sia Angelo Maggio sia Antonio Barracato, che tra l'altro nulla era preventivato, nulla avevamo assolutamente pensato, e qua si sta creando un ponte per cercare in un prossimo futuro di creare delle situazioni che possono essere punti di richiamo e di riferimento per Cefalù e dintorni. Angelo, entriamo proprio nel cuore dello statuto e delle finalità ben precise, così tu ti dichiari e noi poi li andremo a verificare. Questo è il mio mestiere, di andare a verificare, per cui certo, prego. Sono contento di poter essere verificato. Assolutamente sì. Mi fa piacere questo incontro di oggi anche con Antonio Barracato, perché chiacchierando fra uno spot e un altro pubblicitario, come dicevi tu, si è creato un ponte naturale. Vediamo se riusciamo a mantenerlo vivo per i prossimi tempi. Allora, nel vivo molte persone, insomma, pensano, non sanno ancora cosa possa essere, cosa sia il centro commerciale naturale in concreto. E allora immaginatevi di farvi una passeggiata la domenica o il sabato pomeriggio a Palermo, presso questi centri commerciali che io chiamo artificiali, classici, non so, uno piuttosto che un altro, ecco, per evitare di fare pubblicità. Quello che noi vogliamo dare è una risposta al centro commerciale artificiale. Cefalù, come località, è naturalmente, cioè creare la Cefalù, il centro storico e non solo, farla diventare naturalmente come se fosse un centro commerciale. Questo che significa? Significa che gli esercenti e le realtà che insistono all'interno del nostro territorio, quindi di Cefalù, possano identificarsi tutte insieme attraverso, non so, piccoli gesti o azioni comuni, dalla vetrofania a una piccola decorazione che possa identificare tutti all'interno del consorzio, dare una certa visibilità e iniziare a programmare e preparare alcune azioni o eventi che possono essere a favore della cittadinanza, che possono essere di propulsione per incentivare le cittadine di Cefalù e quelli del territorio limitrofo a venire a passeggiare a Cefalù e a fare shopping da un certo punto di vista, o usufruire di alcuni servizi che altre realtà economiche possono fornire, servizi che possono essere servizi turistici, servizi di intrattenimento per bambini, servizi per non so, servizi per disabili, piuttosto che sistemi di fidelizzazione. Dico, progetti ce ne sono a mai finire. Noi nel, giusto per far capire che il nostro intento è molto concreto e molto pratico, noi abbiamo iniziato un piccolo gesto che noi abbiamo fatto, è stato a Natale. Abbiamo fortemente voluto il ritorno del classico albero di Natale vero a Cefalù su Piazza Duomo. Ci siamo riusciti, siamo stati noi a realizzare l'albero vero su Piazza Duomo. Tengo a precisare che era un albero che doveva essere abbattuto dalla forestale, quindi diciamo in assoluto rispetto nei confronti della natura. Abbiamo un po' voluto riprendere anche quelle che sono le vecchie tradizioni, poi possa piacere o meno, questo fa parte insomma dei giudizi di ognuno di noi. Nel brevissimo invece periodo, l'idea nostra è quella di realizzare una sorta di sistema di fidelizzazione che comprende possibilità di promozione o agevolazione all'interno di realtà commerciali che possono essere gli esercenti a qualsiasi livello, quindi di finalità propositiva nei confronti dell'utente finale, realizzare una sorta di carta, di card legata a promozioni, legata a scontistica, legata a particolari situazioni durante il periodo dell'anno, che è valida per tutti gli associati. Noi al momento siamo in 30. Poc'anzi abbiamo detto un modo per reagire a un sistema di crisi è quello di fare rete. Allora, fare rete, quindi unirsi, sedersi intorno al tavolo e trovare dei punti di comunità, dei punti comuni di azione, è molto importante. Noi siamo in 30. Scusami Angelo, siete in 30, appartenete tutta alla realtà cefaludese o del territorio? Quindi... Allora, siamo della realtà cefaludese perché la legge regionale ci obbliga ad essere specificatamente di un territorio ben delimitato. Noi siamo stati accreditati dalla Regione Sicilia attraverso alcuni parametri obbligati dalla Regione. Il perimetro nostro è tutta l'area di Cefalù, sarebbero 1500 metri di perimetro, quindi che parte diciamo dal lungomare fino ad arrivare a tutto via Roma, fino ad arrivare a via Gibilmanna sopra, comprendendo anche tutto il centro storico. Quindi Cefalù intera diventa un grandissimo centro commerciale. Anche perché, se mi scusi Angelo, prego Antonio. Volevo dirti che sto vedendo in un arco temporale abbastanza lungo che il corso Ruggero di Cefalù come polo di commercio sta morendo. Esattamente. E se tu ci fai caso, i negozi sono sempre vuoti. La crisi sistemica, che sicuramente contribuisce, è accompagnata dalla crisi proprio del corso di Cefalù. E quindi se mi fa piacere se riprendete in mano questa faccenda, perché c'erano negozi prestigiosi, venivano da Palermo a fare shopping qui, adesso è assolutamente e si va in questi centri commerciali precostituiti, preconfezionati, dove a volte si vendono anche banalità, però sono sempre pieni. Quindi rigeneriamo questo nostro biglietto da visita che è nel corso di Cefalù, adornandolo con quello che vuoi tu, però dico, dobbiamo riprendere questa cosa in mano perché sta sfuggendo l'economia cefaludese. Assolutamente sì, questo è esattamente uno degli intenti principali, fare in modo che l'utente finale, la gente, il cittadino, e non solo di Cefalù, ma anche dell'intero bacino provinciale e anche fuori, possa sapere che a Cefalù può venire a passeggiare e a fare shopping esattamente come in un grande centro commerciale al chiuso, artificiale, senza le bellezze. Angelo, con i servizi, con i bagni, capisci? Perché è una cosa di cui siamo carenti, il parcheggio è storico, ma a volte, scusa l'espressione, ti scappa la pipì, non hai dove andare. È vero, e quindi questo, è un problema. Sono aspetti. Però vedi, io ci tengo a precisare, noi non vogliamo assolutamente, non è nostra intenzione, non è mia intenzione sostituirmi o sostituirci alla pubblica amministrazione, già mai. Certamente. Però un nostro intento è, io a breve stiamo già realizzando una sorta di lettera di comunicato per tutta la futura amministrazione, a prescindere dai colori politici, per fare in modo di creare un tavolo permanente di lavoro con il nostro consorzio. Permanente di lavoro significa che accetti le nostre idee, i nostri consigli, sederci a tavolo, capire come rilanciare insieme, perché è chiaro che noi facciamo il nostro, ma la pubblica amministrazione è lei che poi deve dare i giusti input, la giusta risposta. I bagni pubblici, d'accordo, è vero, è una realtà possibilmente carente a Cefalù. Noi possiamo dare un input, poi è la pubblica amministrazione che deve finalizzare l'idea. Ecco, Antonio, io desideravo ritornare a questa mostra, molto seguita e molto partecipata, tra l'altro sì. Il risultato ha detto qualche cosa per quanto riguarda il numero dei visitatori. Cosa esponi tu a Bagheria e quali sono proprio i progetti imminenti? Io espongo il mio percorso, il bianchennero sulla Sicilia, che è sempre il mio cavallo di battaglia, proporre anche immagini nuove, però immagini che fotografano sempre la nostra realtà, le nostre tradizioni, perché non scappo mai da quello che è il nostro patrimonio artistico, da quello che è lo studio socio-antropologico della nostra realtà, perché penso che sia fondamentale creare una memoria storica della Sicilia. Non possiamo cancellare tutto con questi sistemi nuovi preconfezionati. A me non piace il prodotto preconfezionato, non piace questo mondo globale che ci vuole schematizzare. Noi dobbiamo assolutamente pensare, e per pensare bisogna creare stimoli attraverso le immagini che ti facciano riflettere, ti facciano pensare quello che c'era, quello... dare libera birra alle persone nel pensiero, cosa che adesso sta un pochettino sfuggendo di mano. E se noi dobbiamo crescere e dobbiamo evolverci, non significa essere pari con i tempi, avendo il telefonino ultima generazione, significa tenere sempre il nostro pensiero sveglio, la nostra mente elastica, perché senza crescita culturale non abbiamo dove andare. Diciamo la verità, la crescita sociale è avvenuta in Sicilia perché i nostri nonni, i nostri bisnonni si sono sacrificati lavorando anche 15 ore al giorno, facendo studiare i propri figli e dando la possibilità di crescere. Oggi siamo questi perché ci sono state quelle persone, non possiamo spazzare via. A volte mi sembra che sono motivi di vergogna un vecchietto sull'asino con la coppola, invece deve essere il nostro cavallo di battaglia, perché il nostro sacrificio è stato quello che è servito alla Sicilia, che ha speso la Sicilia per adesso diventare e entrare in Europa. Dico, non dobbiamo discostarci molto, perché se noi vogliamo creare una cosa così senza avere delle fondamenta, poi ti crolla addosso. Senz'altro. E per quanto riguarda i tuoi impegni, prossimi impegni, cosa hai in mente? Possiamo apparentemente sono in pausa, però è stata una pausa riflessiva, perché sto lavorando sia a livello fotografico sia a livello video, cioè voglio girare delle cose con il cantiere da tempo, però non voglio fare delle cose con premura, perché ho cambiato un po' sistema operativo, quindi sto studiando parecchio, quindi vediamo quello che riuscirà fuori. Il tutto sempre accompagnato da grande modestia, perché se tu ti senti troppo professore, ti accorgi invece di quanto è immensa la conoscenza. Infatti più studio cose nuove, più mi sento piccolo, e quindi ho bisogno di espandere le mie conoscenze per poter fare qualche cosa sempre di qualità. Ecco, io adesso lo voglio dire, uno dei tuoi pregi, e non l'ho detto prima, lo dico adesso, proprio questa, non solo la modestia, ma anche questo tuo modo di fare e di stare tra la gente sempre così, in modo genuino, in modo naturale, e questo ti caratterizza, non solo nel tuo principale lavoro, che adesso non so qual è, giusto? E diciamo nel tuo lavoro, ma soprattutto per quanto riguarda questo tuo hobby. Io lo continuo a chiamare hobby, anche se la professionalità che hai raggiunta, non lo dico io ma l'hanno detto dei critici, è veramente ad un livello alto, e noi ti auguriamo di poter andare sempre più avanti e di continuare, perché anche qua, quando si parla di arte, si parla di cultura, come è stato detto più volte, la persona si sente rigenerare. Certamente, la costanza è importante, e continuare sempre con la massima umiltà è una buona ricetta per riuscire ad arrivare a livelli sempre più apprezzabili. Posso prendere la... Ecco Angelo, sì, puoi la, prendere la perché palla in balzo. Io, ecco Angelo, oggi mi sto limitando anche nel fare le domande, perché come dicevo prima, sicuramente il consorzio sarà propositivo nei riguardi della prossima amministrazione attiva, quindi svolgerete un ruolo. Ripeto, io non desidero addentrarmi su questa situazione, perché anche così genuinamente si potrebbe magari menzionare uno o un'altra persona e noi non lo possiamo fare. No, ma infatti hai un minuto di tempo, perché poi devo passare la linea alla regia. Allora, un minuto, prendo la palla al balzo sul discorso che faceva Antonio prima. Studiare e perfezionarsi. Anche questo è uno dei modi per reagire a un sistema di crisi. Tenersi a passo con i tempi, studiare, nel caso nostro del consorzio è la formazione. Specializzarsi in un segmento e formarsi è una cosa fondamentale. Oggi la realtà commerciale, dico ahimè, lo noto io rispetto a altri posti dove sono stato in passato, ho viaggiato in passato, pecca, ma lo dico così veramente con molta, è un pensiero mio personale, mi assumo anche le responsabilità, dico pecca un po' di formazione dell'accoglienza. Allora dobbiamo battere sulla formazione dell'accoglienza, perché ci permette di attirare sempre di più utenti che vengono a fare shopping, a usufruire dei servizi. Io ribatto sempre su questo, non solo i turisti, quindi chiaramente avere la capacità di interfacciarsi con il turista, quindi conoscendo la lingua inglese soprattutto, ma anche con i locali. Il sorriso è fondamentale, un approccio è fondamentale. Questa è sulla formazione dell'accoglienza. Io mi batterò per creare dei corsi o dei sistemi di formazione per gli addetti del settore commerciale, per gli addetti del settore turistico, per gli addetti, dico volendo anche della pubblica amministrazione, insomma a tutti, a 360 gradi. La formazione è fondamentale e aiuta a superare o a reagire a un periodo di crisi. Senz'altro. E allora, linea alla regia e poi alla ripresa, dopo lo spot, noi passeremo all'ultimissima parte di qua e là, già una novità e l'altra di domenica 22 aprile 2012. Linea alla regia, grazie. RM. Il mito diventa realtà. Remida Cefalù trasforma il vostro oro e argento in denaro contante. Veniteci a trovare per una valutazione gratuita. Rimarrete sorpresi del valore che solo Remida riesce a dare ai vostri oggetti. Remida Cefalù è in via San Pasquale 20. Vi accoglieremo con serietà e trasparenza, garantendo per il vostro oro e argento la massima quotazione di mercato, certi di lasciarvi soddisfatti. Remida a Cefalù in via San Pasquale 20, per realizzare i vostri sogni nel cassetto. Ristorante Pizzeria Villa de Melograni, nuova gestione. Ci siamo fatti in quattro: Rita, Daniele, Giacomo e lo chef Giovanni Porcello. Veniteci a trovare venerdì sera per le specialità delle nuove pizze e vi offriamo le misticanze calde. Sabato sera vi offriamo l'aperitivo e domenica a pranzo un ricco ed appetitoso menù. Villa de Melograni, la scelta migliore per il ricevimento del vostro tanto sognato matrimonio, dove in ambienti eleganti e romantici potrete scrivere quel libro la cui sceneggiatura è già impressa nei vostri cuori. Villa dei Melograni, il posto ideale per festeggiare le vostre ricorrenze più importanti. A Cefalù, in via del Giubileo Magno 2, con ampio parcheggio, Villa dei Melograni. Anche sala congressi. Chiuso il martedì. Per prenotazione ed informazioni 0921 422 517 www.villademelograni.it.

E allora Emiliano, so che la mamma è splendida e alla mamma vanno i migliori auguri in bocca al lupo, soprattutto grazie, di ottima grazie. Salute. Ma questo papà, intanto, ecco, proprio così, questo papà com'è stato e com'è? Com'è stato? Diciamo che si è praticamente diviso in due ruoli, diciamo. Uno è quello dell'artista Don Bachi e l'altro è quello dell'uomo Aldo Caponi. Quindi come padre è stato un padre assolutamente sempre presente, nonostante il suo lavoro lo portasse spesso a dover viaggiare per concerti, però non ha mai, diciamo, tralasciato l'importanza di ritagliarsi dei periodi di tempo, anche rinunciando magari certe volte a dei lavori per passare appunto il tempo con la famiglia, con la moglie e con me che sono suo figlio. E mi ha chiaramente insegnato tanto e soprattutto lo ha fatto non solo con appunto gli esempi e l'educazione giornaliera, ma anche e soprattutto con le sue canzoni, che per me sono state uno spunto anche per imparare i valori che lui, diciamo, è stato capace di trasmettere attraverso i testi che ha scritto. Sì, del questo resto in poche parole. Del resto io papà tuo l'ho intervistato anche in altre occasioni, quindi diciamo a modo di conoscerlo anche come persona, e quindi tu ci hai fatto una foto che dal mio punto di vista rispecchia l'uomo Don Bach. E tra l'altro mi risulta lui è stato ed è anche un missionario, perché sappiamo quanto crede nei giovani, questa ricerca che ha sempre fatto, eccetera. E tu mi sai che sei sulla stessa scia di papà, perché ecco, sei alla ricerca di talenti, per adesso hai una voce interessantissima, Isabel Tamiazzo, possiamo dire nome e cognome, la cui voce la faremo ascoltare in una prossima molto occasione. Molto presto, sì, anche perché adesso poi parleremo di questa mia iniziativa, c'è un CD in produzione, adesso insomma vi racconto poi. Ecco, raccontaci qualche cosa intanto. In effetti sì, dunque, in realtà la mia avventura nella produzione discografica comincia nel 2001. Fino a quel momento avevo bene o male, ho seguito altre strade, anche se appunto bene o male sono cresciuto in quest'ambiente, perché tutte le volte che poi mi è stato possibile farlo, anche quando ero più piccolo, seguivo papà magari nei suoi concerti, nelle sue tournée, o soprattutto, che era la cosa che mi piaceva di più, quando entrava in studio di registrazione per realizzare dei dischi, quindi comunque mi sono fatto un'esperienza sulla mia pelle da questo punto di vista. Poi, avendo le mie, diciamo, passioni, fino al 2000 ho seguito altre strade, ho disegnato fumetti, io ero un appassionato, sono tuttora appassionato di fumetti, e mi piaceva anche disegnare, quindi ho fatto delle scuole di formazione dopo il liceo artistico per appunto affinare questa mia tecnica, e ho inizialmente iniziato in questo campo del mondo dell'arte. Poi nel 2001, quasi per gioco, mio padre mi ha proposto di appunto cercare una o più voci di giovani ragazzi che volessero intraprendere questa carriera di cantante, per fargli incidere dei provini, delle canzoni che lui aveva nei suoi cassetti, perché non tutto quello che scrive poi lui produce per se stesso, alcune cose le lascia nei suoi cassetti e magari negli anni poi le ritira fuori, o per se stesso o appunto per vedere se è possibile che qualcun altro le interpreti, Quindi questa cosa è cominciata quasi come una sfida per gioco nel 2001, quando lui appunto mi dà un paio di pezzi suoi e mi dice: se ti va, vuoi provare a trovare fra le tue conoscenze dei ragazzi che vogliono fare dei provini, vediamo poi che cosa si può succedere. Insomma, in poche parole, io ho un mio carissimo amico che è titolare di uno studio di registrazione qui a Roma, e quindi con lui mi sono appoggiato a lui e ho contattato una mia amica di vecchissima data, perché siamo amici da quando veramente siamo proprio piccoli, che è Allegra Lusini, figlia di Mauro Lusini, che è praticamente l'autore, tra le altre, di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, canzone portata al successo da Gianni Morandi. Allegra ha seguito le orme artistiche anche lei del padre, è diventata una bravissima cantautrice, all'epoca era appena stata a Sanremo e io l'ho contattata e le ho fatto praticamente fare un provino su questa canzone scritta da papà, e da qui poi è nato un progetto che è stato il mio primo progetto di produzione. Ho realizzato insieme ad Allegra un CD nel quale CD ci sono due pezzi dove io sono anche coautore dei testi insieme a lei, perché lei è cantautrice, e quindi mi sono appassionato anche a questo mestiere, stando diciamo dietro le quinte, perché non ho mai amato, neanche preso in considerazione l'idea di cantare o di suonare uno strumento. Invece mi sono appassionato alla produzione e all'organizzazione di tutto ciò che c'è dietro alla creazione di un disco, diciamo, e da lì è cominciata, fra virgolette, la mia carriera di produttore. Ecco, per adesso c'hai una voce alla quale tu credi, quando ci siamo sentiti in settimana dici: sai Pino, io c'ho questa voce che per adesso veramente ci credo tantissimo, stiamo puntando in alto. Assolutamente, infatti stavo aggiungendo, arriviamo diciamo ai giorni di oggi attraverso varie esperienze che ho fatto nel mondo della produzione, e praticamente io nel 2009 vengo a conoscenza dell'esistenza di questa ragazza che tu prima hai nominato, che si chiama Isabel Tamiazzo. È una giovane cantante, diciamo, di 21 anni, lei è di Vadena, in provincia di Bolzano, e ne vengo a conoscenza tramite una fans di mio padre che ce la segnala, e io la contatto e dopo averla praticamente sentita cantare, vengo a conoscenza che lei aveva appena, del fatto che lei aveva appena vinto un concorso che va in onda su Italia 1, che si chiama Talent Night, come migliore voce diciamo emergente nella sezione canto, e aveva vinto una borsa di studio al MAS di Milano, e praticamente l'ho appunto contattata e ci siamo incontrati a Roma e le ho praticamente fatto cantare una canzone scritta anche questa da mio padre, riarrangiata apposta per lei, e questa canzone che si intitola Lui l'abbiamo mandata a Sanremo di quell'anno, praticamente per la nuova generazione di Sanremo del 2009, e è stata scartata la canzone, però qualche mese dopo è stata inserita in una compilation che raccoglieva i migliori 20 pezzi scartati dalla commissione di Sanremo, prodotta da Stefano Jurgens per appunto un progetto discografico, e ha voluto assolutamente che la canzone di Isabel fosse inserita in questa compilation perché l'aveva ascoltata. E da lì Isabel ha cominciato diciamo a essere conosciuta, al punto che io poi ho sfruttato, fra virgolette, l'occasione dell'uscita dell'ultimo album, il nuovo album di mio padre, prodotto anche quello da me, Il mestiere delle canzoni, per farle cantare una canzone che è stata poi inserita in quest'album in duetto con mio padre, che si intitola Che strano. Le due canzoni, Lui e Che strano, in questo momento sono scaricabili da iTunes Store e anche su altre piattaforme digitali, e hanno in qualche modo fatto conoscere Isabel al pubblico, tant'è vero che poi nel 2010 Isabel ha partecipato anche alla trasmissione di Rai 1 I Raccomandati, arrivando alla semifinale, alla serata di semifinale. Da qui nasce l'idea di produrre un CD tutto suo, il suo primo CD, dove all'interno sono contenute 10 canzoni fra diciamo i successi meno conosciuti di mio padre, di Don Bachi, scritti nell'arco di tempo a cavallo fra la fine degli anni 80 e tutti gli anni 90. Chiaramente i pezzi sono completamente riarrangiati in uno stile musicale moderno che strizza un po' l'occhio diciamo all'R&B, anche perché si sposa molto con le capacità vocali di questa ragazza, è un po' diciamo un Alicia Keys italiana, se vogliamo dire, insomma, come capacità vocali, ecco, quindi molto brava. E il disco è in questo momento in produzione, siamo in fase di post produzione, stiamo facendo i missaggi, il singolo è praticamente quasi pronto e uscirà alla fine di maggio, verrà inizialmente lanciato solo sulle piattaforme digitali, prima di tutte chiaramente iTunes Store, e il CD invece uscirà anche nel formato, diciamo, fisico, distribuito quindi nei negozi, credo per entro la metà di settembre. Chiaramente quando saremo pronti, se tu avrai la voglia e ci darai l'opportunità, noi saremo a disposizione. Dopo questa bella storia, perché sai, anche quando parlo con papà, le sue storie ci trasportano sempre, e tu sei riuscito stamane intanto a trasportarci. Io grazie, se posso aggiungere ancora due note, sì, su questo progetto di Isabel, il CD si intitola Un volo di farfalla. In questo momento Isabel ha una fanpage su Facebook, tu sai bene che oggi ormai questi social network sono diventati un veicolo del quale non si può fare a meno, anche per in qualche modo pubblicizzarsi e farsi conoscere, visto che soprattutto per quanto riguarda le piccole etichette indipendenti come la mia, i grandi canali sono spesso preclusi, visto che le major, anche se ne sono rimaste poche, in questo momento, diciamo, hanno in qualche modo chiuso la possibilità alle piccole etichette di avere spazi, soprattutto anche radiofonici, nei network, chiamiamoli quelli che contano. Per fortuna esistono radio come la tua sul territorio nazionale che ancora hanno voglia di dare spazio a giovani produttori come me e giovani artisti come Isabel, che appunto altrimenti proverebbero e avrebbero fatica a farsi sentire e conoscere. E di questo io ringrazio te e tutte le persone che come te lavorano nelle radio, diciamo, secondarie, ma solo per modo di dire, ecco, in questo senso. Senti, dicevo, ha una fans page quindi su Facebook, dove si possono ascoltare delle anteprime delle canzoni del suo nuovo CD. Basta cliccare, diciamo, digitare nella ricerca di Facebook il nome Isabel Tamiazzo e uscirà proprio la fan page, alla quale basta iscriversi cliccando sul famoso mi piace per poter accedere ai contenuti, vedere le fotografie del backstage del servizio fotografico per il CD, ascoltare delle anteprime delle canzoni che fanno parte di questo CD e anche interagire con noi dello staff e con Isabel stessa. Questo è quanto. Questo è molto importante. Noi intanto facevamo scorrere delle immagini, delle DVD, quello che accompagna il cofanetto di... Il cofanetto, sì. Ecco, ce n'è una, non sappiamo onestamente se Isabel è quella ragazza che papà tuo stringe, ecco, non sappiamo, perché, ripeto... Sì, è una ragazza bionda con i capelli tirati indietro in quella... Ecco, allora ci siamo, abbiamo individuato. Io adesso, come ti dicevo quando ci siamo sentiti... Oltretutto, scusami se ti interrompo, nel cofanetto c'è questo concerto che papà ha tenuto due anni fa al Palapartenope, sì. Proprio per il lancio del suo tour di quell'anno, dove Isabel è stata ospite e ha cantato dal vivo proprio queste due canzoni di cui ti ho parlato prima. Quindi nel cofanetto, anche nel concerto, si vede Isabel cantare dal vivo sul palco una canzone insieme a mio padre e una da sola. Dimmi, scusami. Ecco, io ti volevo dire questo, siccome so che tu hai un altro sogno nel cassetto. Noi quando ci siamo conosciuti telefonicamente ti dicevo anch'io, sì, cerco di contribuire ogni giorno per i giovani e per, sì, farli crescere, sì, nel modo migliore possibile, sì, perché tra l'altro ci credo tantissimo sì, nei giovani e in tanti, perché tutti nascono talenti, poi magari qualcheduno lo perdiamo per strada perché la società non è stata tanto buona con sì, e non sempre poi finiscono nelle mani delle giuste persone, anche, ecco, c'è da dire, ecco, questo. Noi ce la mettiamo in giro. Allora, io so che tu hai un sogno nel cassetto, desidero proprio da questa emittente che radio trasmette da Cefalù, e che sì, tra l'altro, come ti dicevo, non siamo solo in voce. Mi ascolti? Sì, sì, assolutamente, sono sì, qui. Non siamo solo in voce, ma anche in video, per cui siamo un pochino seguiti in tutto il paese, sì, anche oltreoceano. So che tu sei, ecco, per il lavoro che fai, per la tua disponibilità e generosità, hai anche in mente un domani, in un prossimo futuro, di poter realizzare una scuola di canto, una scuola che... Sì, guarda, è un sogno, più che un sogno, è un progetto vero e proprio che stiamo cercando di realizzare. Chiaramente ha bisogno di tempi e di, diciamo, uno studio e un'applicazione molto, diciamo, mirate, intense, quindi a seconda chiaramente dell'incastro dei tempi di realizzazione di altri progetti questo in piedi in questo momento, appunto quali questo CD, in realtà sì, vorremmo io e mia moglie in realtà, poi che è stata, diciamo, la vera ideatrice di questo sogno nel cassetto, che speriamo di portare diciamo alla luce entro quest'anno 2012 o al massimo i primi del 2013, è proprio la realizzazione di veri e propri corsi per giovani artisti da tenere chiaramente a livello, diciamo, settimanale, due o tre volte al mese, adesso questo è in fase di studio, dove dare la possibilità appunto a giovani artisti, cantanti e musicisti, non solo cantanti, di affinare quelle che sono già delle capacità che loro hanno proprie, diciamo, quindi con dei corsi specifici dove attraverso degli stage giornalieri si possono imparare delle tecniche attraverso appunto le lezioni di veri e propri professionisti del settore, quali appunto musicisti, insegnanti di canto, eccetera eccetera, con chiaramente la presenza poi alla fine di mio padre nella commissione che alla fine giudicherà il giovane che prenderà parte a questi corsi, e mettendolo poi nelle condizioni di avere magari un video di una sua esibizione con un riconoscimento, un attestato della nostra etichetta discografica, che possa poi permettergli di avere appunto un biglietto da visita in questo senso. Ecco Emiliano, ci lasciamo in un modo con un impegno che è condivisibile, e l'impegno è questo. Io intanto ti faccio il migliore in bocca al lupo per quanto riguarda questo tuo percorso di scopritore, perché è un fatto importantissimo, perché è importante, come dicevamo prima, che i giovani finiscano nelle mani giuste. E sei partito da Bolzano con Isabel. Sì. Ecco, sicuramente dopo questa trasmissione mi chiederanno i giovani che desiderano avere una prospettiva, qualche cosa. Allora facciamo una cosa, creiamo un ponte intanto fra Roma, perché tu ti trovi a Roma in questo momento, e la nostra città di Cefalù. Se va in porto, come io te lo auguro, questa iniziativa con la tua signora, ecco, chissà se io da Cefalù non possa mandarti o segnalarti qualche nominativa. Ah, voglia, io Pino, questo è un qualche cosa a cui non solo l'appoggio questa tua idea, ma ci conto, perché avremmo sicuramente bisogno anche in questo senso che questa iniziativa venga in qualche modo conosciuta e raggiunga appunto abbia la possibilità di raggiungere appunto i ragazzi eventualmente interessati. Noi poi abbiamo anche un sito internet che è il sito ufficiale della Ciliegia Bianca, che è la mia etichetta discografica, che è www.ciliegiabianca.it, tutto attaccato a Ciliegia Bianca, e su questo sito chiaramente, oltre ad esserci già tutte quelle che sono le nostre iniziative, al momento in cui questi corsi verranno perfezionati verrà messo il bando di concorso e tutte quelle che saranno le informazioni utili a eventualmente iscriversi per chi ne avrà voglia e vorrà fare questa esperienza, ecco, in questo senso. Ecco, e allora ci salutiamo in questo modo. Io ti ringrazio anche per questa intervista, perché so che la mattinata in famiglia è stata un pochino movimentata, ma l'importante è che... Sì, ma è andato, grazie, ecco, a Dio, tutto si è risolto solamente nel migliore dei modi. Sì. Io ecco, mi impegno la prossima volta che mi troverò a Roma proprio di chiamarti, magari... Assolutamente, dobbiamo conoscerci di persona, Pino. Io ringrazio te intanto per l'opportunità che hai dato a me di avere questa intervista, e ti ringrazio anche per diciamo la disponibilità a quelle che saranno eventuali collaborazioni future. E saluto tutto il tuo pubblico con un grande abbraccio e auguro una serena domenica a tutti quanti. E io ti saluto col ditti sempre a De Maiora, perché non ti dimenticare, sei un Emiliano Caponi, figlio di una persona che, come diceva Patuo, aumentano gli anni all'anagrafe, ma non solamente, ma non nello spirito, perché non finisce di stupirci con la sua verve. L'età per lui è uno stato della mente in questo senso. Lui è rimasto ai tuoi 20 anni dal punto di vista artistico, assolutamente. L'abbiamo fatta ascoltare prima. Grazie, Pino. Ti abbraccio, ti auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao. Grazie Emiliano, ancora, alla prossima. Salutami tutti tuoi. Ciao Emiliano. Grazie, ciao. E allora io direi, prima di chiudere con Angelo e Antonio, caro Antonio, come vedi in diretta riusciamo a creare anche questi ponti. Dal discorso nasce la luce. Dal discorso nasce la luce, bravo Antonio. Ultimo spot, poi io chiuderò con Angelo Maggio e con Antonio Barracato questa puntata di qua e là tra una novità e l'altra. Fabio, linea alla regia, grazie. CRM pubblicità. In un momento di crisi si può ancora mangiare bene. Mio Sudide, ristorante pizzeria, dove potrete gustare specialità marinare e della cucina tipica siciliana o scegliere tra svariati tipi di pizze cotte nel forno a legna. Ristorante pizzeria Mio Sudide, dove lo chef Totuccio Culotta vi proporrà le sue specialità preparate con prodotti caserecci e con il pesce fresco tutti i giorni. Mio Sudide, il locale ideale per festeggiare le ricorrenze importanti e inoltre è convenzionato Diamond Card. Ristorante pizzeria Mio Sudide, ex Conchiglia, con ampia terrazza immersa nel verde, contrada Santa Lucia a Cefalù, accanto al rifornimento Eni. Per prenotazioni 339 31 79 348. In un momento di crisi si può ancora mangiare bene. Siamo nati per muoverci, per sorprenderci, per gioire, per emozionarci, per lasciarci il passato alle spalle. 208 è nata per noi. Nuovi motori performanti con bassi consumi, nuova architettura interna, nuovo schermo touchscreen 7 pollici multimediale, nuovo design compatto. Nuova Peugeot 208. Let your body drive. La nuova Peugeot 208 verrà presentata da AICA, concessionaria Peugeot, sabato 21 e domenica 22 aprile a Termini Merese, in Piazza Duomo. Veniteci a trovare, vi aspettiamo. A Cefalù, al numero 66 di Via Mandralisca, Caffè 66, food, drink e... Nel centro storico di Cefalù, vicino al Duomo, un locale per tutti. Atmosfera calda, accogliente e amichevole. Pub Caffè 66, food, drink, creperia, panineria, bruschetteria, wine bar, birreria, insalate e piatti tipici. Lo trovate anche in internet su www.caffè66.altervista.org. Caffè 66, al numero 66 di Via Mandralisca, di fronte il museo. Nuovo atelier. Finalmente è arrivato il giorno più bello della tua vita. Tutto dovrà essere perfetto. Tu dovrai essere impeccabile. Il tuo vestito dovrà essere il più elegante, il più prestigioso prodotto di alta moda. Semplicemente unico. Allora vai da Sposi di Gio, per la sposa e lo sposo, per l'occasione più importante della vita. Sposi di Gio. Vasta esposizione di modelli di abiti e accessori per gli sposi. A Campo Felice di Roccella, Piazza Cipolla 5. Per appuntamenti 0921 925 093. Corona il tuo sogno con un abito d'alta moda Sposi di Gio. Nuovo atelier a Cefalù, Piazza Belipanni 11 e GV Center. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio. Dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello più esclusivo per soddisfare bisogni e desideri di ognuno. Arredi Madonia, mobili classici e moderni. Un vasto showroom con esposizione di 25 modelli cucine Lube, dove potrete toccare con mano la qualità di cucine innovative che propongono soluzioni per ogni tipo di spazio e per ogni esigenza. Madonia Vincenzo e Figlio, una grande realtà sempre legata al territorio, che propone mobili fatti di materiali importanti e resistenti, sinonimo di qualità e al miglior prezzo. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro Domo. Mettiamo al servizio dei nostri clienti oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Telefono 0921 67 67 31. Per la tua pubblicità, CRM 0921 42 3456. veramente alla conclusione di qua e là tra una novità e l'altra, e desidero appunto concludere con i miei due ospiti in studio, che io ringrazio per questa loro presenza, per questa loro partecipazione, su argomenti che riprenderemo, caro Angelo, perché sicuramente, come dicevo prima, dopo la fatidica data delle elezioni, il vostro consorzio sarà un consorzio che avrà più visibilità, perché oggi se non si unisce, non ci si unisce, come dicevi prima, per cercare insieme di portare delle novità, di portare eleganza, di portare stile, allora ci si confonde con altre realtà che nulla hanno a che vedere con la città di Cefalù. Angelo, ci salutiamo. Infatti, grazie Pino, io volevo dare un ringraziamento e un diciamo, non dico un suggerimento, ma comunque un mio desiderio. Il mio desiderio diciamo, condiviso anche con il gruppo direttivo del consorzio, è quello di lottare all'interno delle realtà commerciali, lottare contro la diffidenza. C'è molta diffidenza e c'è molto individualismo qui a Cefalù. Cerchiamo di rompere questo muro, sediamoci tutti a un tavolino, troviamo dei progetti condivisi, portiamoli avanti. Questo è uno dei miei desideri e delle mie aspettative, e mi batterò per questo. Il ringraziamento poi chiaramente va a te e a tutti coloro che ci hanno ascoltato, e soprattutto a Cefalù Radio Madonie, che è la radio partner del nostro consorzio, fa parte di Cefalù per Radio Tirreno, è la nostra radio principale, partner, la radio ufficiale, quindi non mancherà sicuramente occasione, spero, di poterci riconfrontare. Assolutamente no. Ad Antonio lo saluto allo stesso modo, rimani sempre quello che sei come persona, genuina, e nello stesso tempo anche Angelo è un caro ragazzo che, come dicevo prima, ho conosciuto giovanissimo e piccolissimo, anzi colgo l'occasione per salutare mamma e papà. Antonio, grazie a te, veramente io ti auguro di cuore di fare qualche cosa insieme presto, e soprattutto non ci arrendiamo, Antonio, no, perché vedi, i tempi cambiano, possono cambiare pure le persone, e si può ritornare ad organizzare per la nostra città anche in quelle direzioni, certo, che sono state un pochino, che sono state così belle insieme. Ringrazio questa voce di Cefalù che ci remme, e te sempre per la tua gentilezza, sì, per la tua genezza, e speriamo di fare qualche cosa insieme di grazioso. Grazie. Sì. Ecco, l'editore mi suggeriva, lui è sempre attento, Angelo è stato collaboratore di CRM, ma noi non può fare altro che piacere. Un grazie anche a Don Baghi, a suo figlio Emiliano, a Fabio che è stato in regia, e al nostro editore Angelo Arduino. Da Pino Simplicio un buon proseguimento di domenica, grazie. Va ora in onda qua e là tra una novità e l'altra.